Oggi è 2 gennaio, è cominciato il nuovo anno, ma quello vecchio è finito l'altro ieri. Dunque, io pensavo che cosa posso dire a questi miei fratelli cristiani come augurio per il nuovo anno. Perché abbiamo sentito e sentiremo tanti saluti. Buon anno, speriamo che quest'anno sia così, cos'ha. Questi sono segni di buona educazione, ma niente di più. Sono magari anche bei desideri, ma niente di più. Allora io pensavo un saluto più cristiano, un saluto da portare a casa e da tenere presente nella nostra esistenza. Lo spunto me l'ha dato il giornale del penultimo giorno dell'anno. Ho letto una notizia che non so quanti di voi, senza offesa, hanno letto, perché se non viene in casa vostra della stampa cattolica, certamente non l'avete sentito. Diceva che nel 2021 in tutto il mondo sono stati uccisi 22 missionari. L'avevate sentita questa notizia? No, perché intanto spendo una parola per quello che posso a dirvi. Amici, se amiamo la Chiesa, se amiamo la nostra fede, informiamoci in casa nostra, perché è un po' buffo se uno vuole conoscere la storia del proprio nonno e nonna o dei propri genitori chiedendo in cortile o chiedendo in condominio. Gli altri ti diranno quel poco che sanno e con gli occhiali che loro hanno. Ma se tu vuoi conoscere la tua casa, devi chiedere ai tuoi. Dunque, 22 missionari, 13 sacerdoti, alcune suore e alcuni laici, uomini e donne, che erano, soprattutto la più parte è stata uccisa in Africa, che erano fuori di casa loro, fuori dalla loro nazione per annunciare Gesù, e gli hanno incontrato la morte. Riflettendo su questo, il mio pensiero è andato un po' e mi sono detto: ma proviamo a guardare anche nelle nostre case. Il tema del nascere e del morire è un tema che si presenta anche nelle nostre comunità, sul quale però raramente riflettiamo. Credo che anche in casa nostra, o nei nostri parenti o vicino a noi, abbiamo assistito a delle nascite e abbiamo incontrato anche dei lutti. In genere, siccome neanche noi cristiani siamo abituati a riflettere su questo, siamo abbastanza impreparati. Quante nascite di gioia, quante nascite negate nel mondo a causa degli aborti, non se ne parla più, ma sono vite non accolte perché la gente non era pronta ad accogliere una vita. Quante persone morte. E anche lì tante volte, più delle volte, eravamo impreparati, perché raramente anche il cristiano pensa al destino eterno della sua vita. E allora mi sono detto: Ambrogio, fai l'augurio ai tuoi cristiani che riflettano oggi, ma anche in seguito, sul senso della vita. È una domanda questa che raramente ci poniamo: perché sono al mondo? Più delle volte, se qualcuno ci pone questa domanda, è facile reagire con delle battute, ma che non vanno al cuore del problema. A quel punto mi è venuta in mente una definizione che ho imparato da bambino e che credo oggi i nostri ragazzi non conoscono più, perché non la sento più annunciare né dai sacerdoti né dai catechisti. Si diceva nel catechismo di una volta, molto preciso, molto chiaro, perché siamo stati creati? Siamo stati creati per conoscere, amare, servire Dio in questa vita e goderlo nell'altro in paradiso. Allora, cari cristiani, io vi faccio l'augurio di un buon anno, tentando di dire due parole su questi verbi. Vi auguro che questo 2022 sia un anno in cui ciascuno di noi conosca, ama e serva il Signore, tenendo presente che l'atto finale sarà il paradiso. Conoscere. Io mi auguro che tutti conoscano bene Gesù, ma alcune volte noto persone che confondono il conoscere profondo Gesù con avere alcune notizie su di Lui. Per conoscere bene bisogna frequentare. Forse qualcuno di voi meno giovane, vedete che io cito tanti proverbi anche, li ho imparati in casa mia, perché il proverbio sapienziale si ricollega anche al libro dei proverbi della Bibbia. Sentivo dire questo proverbio: per conoscere una persona bisogna mangiarci insieme uno staio di sale. Quanto sia uno staio non mi ricordo, ma sono un bel po' di chili. Allora, se tu vuoi conoscere una persona, devi frequentarla, mangiarci insieme a lungo, tanto da mangiarci una vita. Allora conoscerai una persona, la frequenterai. Così è Dio. Per conoscere Dio bisogna mangiare con Lui il suo Vangelo, la sua parola, la vita della Chiesa. Conoscere, amare. Anche questo amare ha un significato profondo e mi rifaccio a una frase che ho sentito a Medjugorje, quando delle veggenti hanno chiesto all'apparizione: e che cosa ne sarà delle persone lontane? L'apparizione ha risposto: i lontani? I lontani non ci sono. Ci sono solo tante persone che non conoscono e che non amano Gesù. Interessante, interessante. Conoscere, amare, nel senso di entrare in relazione, volergli bene a Gesù, e così sperimenteremo alcune volte, mi auguro che sia capitato tante volte a voi, sentire il suo amore. Perché quando ci manca, la gente si lamenta. Non sento più il Signore. O al contrario, della gente che riteneva di aver conosciuto il Signore, a un certo punto dice: poi mi sono convertito, andando nel tal santuario, conoscendo quel tal gruppo di cristiani, quel tal movimento cristiano, mi sono convertito. Era sempre battezzato, era sempre cristiano, ma non aveva questo rapporto intimo, conoscere, amare e servire Dio. Se noi avremo questo rapporto con Dio, per noi sarà normale servirlo, servirlo nella Chiesa. Normalmente dico un'altra battuta e la ripeto anche oggi. Non fidatevi, me lo dice l'esperienza, non fidatevi di coloro che dicono: oi, se ha bisogno mi chiami, eh? Non fidatevi, più delle volte quando li chiami non hanno tempo. Fidatevi di coloro che vengono a cercarvi, vengono a trovarvi e dire: senti, ti serve qualcosa? Oh, grazie. Guarda, per il momento sono a posto, però tengo presente della tua generosità. Servire Dio, amici, non se Lui mi chiama, ma io farmi avanti verso la mia comunità parrocchiale, amici. Quanti di noi si presentano e dicono: c'è bisogno di una mano? Posso fare qualcosa? Hai bisogno di una catechista? Ti serve per fare le pulizie? Posso fare un gruppo del Vangelo in una casa? Posso conoscere, amare, servire Dio in questa vita e alla fine goderlo nell'altra, in paradiso. Guardiamo in faccia Gesù, guardiamo in faccia la Madonna, amici. Glielo diciamo tante volte tutti i giorni e ce lo dimentichiamo. Prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Questo è il mio augurio per il 2022. Vi pregherei di portare a casa questo augurio e questo pensiero. Perché ho incominciato un nuovo anno? Perché ringrazio Dio che mi ha fatto iniziare questo nuovo anno? Per conoscerlo, amarlo, servirlo in questa vita, in attesa di incontrare il suo volto e il volto della Madonna in paradiso.